Fra pochissimo inizia il mini pimer di questa sera, la nostra maxi trasmissione. Oggi abbiamo un ospite, una scrittrice, Simona Renzi. Presentiamo il suo libro Intervista con l'assassina, una donna che si è ribellata alla violenza. A fra pochissimo. Un giorno eravamo a casa Emilio e io. Come sempre trovò il modo per accusarmi di qualcosa. Aveva di nuovo bisogno di sfogarsi. Quella volta mi bloccò al tavolo della cucina. Lui era seduto da un'altra parte e io dall'altra. Mi teneva stretta per i polsi. Da quella distanza non riusciva a colpirmi bene e allora mise in atto una nuova tortura. Avevamo un posacenere pesante, fatto di legno e ferro. Cominciò con quello a schiacciarmi le mani. Vedevo i capillari delle mani scoppiare, il dolore era enorme, i lividi che si formavano neri e gonfi. Riuscii a divincolarmi e mi allontanai dal tavolo. Lui però fu più veloce di me, prese le molle di ferro dal camino e cominciò a menare botte con quelle. Mi stava massacrando, era eccitato, la vista della mia sofferenza lo esaltava e fu proprio per questo che commise un errore. Lasciò per un attimo la presa e io riuscii a scappare. Cominciai a correre lungo la strada, nascondendomi come meglio potevo. Sapevo di averlo alle spalle, sentivo il suo ansimare. Ero bloccata. Non potrò mai dimenticare la sensazione di impotenza che provai. Sapevo che prima o poi mi avrebbe raggiunta. Però non mi fermavo, continuavo a correre finché non arrivai in una strada periferica. Non c'era più nessuno intorno, solo qualche lontano contadino sui campi. Pensavo fossi riuscita a seminarlo. Così rallentai un po' l'andatura e mi lasciai andare ad un pianto disperato. Ma proprio in quel momento il rumore di un motore alle mie spalle mi fece sussultare. Era lui. Si avvicinò con la macchina e mi ordinò di salire. Io continuavo a camminare piangendo e pregandolo di andarsene, ma non poteva lasciare che fossi io a decidere. Accelerò e poi con un colpo di freno a mano fermò la macchina davanti a me. Scese. Aveva la bava che gli usciva dalla bocca, gli occhi trasfigurati dall'odio, in mano stringeva una corda. In men che non si dica mi ritrovai legata e a forza di calci mi fece salire. Mi buttò dentro l'abitacolo come si fa con un sacco della spazzatura. Non sentivo più le sue urla, né i pugni che ogni tanto mi sferrava. Ero morta, il mio corpo era lì, ma il mio spirito era lontano. Mi aveva tolto ogni dignità, legata e malmenata, un animale pronto al sacrificio finale. Fece un po' di chilometri lasciandomi in quel modo, poi quando raggiungemmo i pressi di casa mi slegò. Ormai aveva dimostrato che lui era più forte di me, ormai aveva capito che non sarei più scappata. Ricordi non ne hai, di quella notte lo sai. Terzo piano della tua follia, letto in grembo come una magia. Dimmi il punto di vista di chi ne abusa e poi non chiede scusa. Dimmi il punto di vista di chi prendono il vista e poi ti lascia sola. Wendy, tuo vestitino, sporco di vino. Eccoci. E dunque abbiamo letto un brano di un libro che andiamo a presentare, Intervista con l'assassina, una donna che si è ribellata alla violenza, Culture Edizioni con la Q, Simona Renzi. Ciao Simona, ben ciao. Trovata. Allora, vabbè, abbiamo subito iniziato con un, un brano del tuo libro che insomma fa capire già abbastanza bene l'argomento. Parliamo appunto di una storia di violenza e di riscatto anche in questo caso, e da appunto questa violenza. Intanto ti chiediamo come nasce questo libro. È un'esperienza autobiografica in buona parte, diciamo. Sì, questo libro è assolutamente una storia autobiografica. L'unica cosa che è inventata è l'assassinio, e io sottolineo sempre purtroppo, perché forse mi sarei risparmiata tante cose. Però l'hai scritto, insomma. Sì, con la penna sono riuscito ad uccidere. Sì, infatti, è anche una storia di riscatto, e tutto il racconto conduce, diciamo, a una presa di consapevolezza che comunque evidentemente appartiene ovviamente anche a te. Il libro, peraltro, è diciamo così strutturato: c'è una prima cornice che è una giovane ragazza di 20 anni che fruga nella cantina della nonna, un classico. E in questa cantina trova due cose che riguardano il passato di sua nonna: trova una poesia, La Dama Bianca, una poesia su Bellezza Orsini. E poi un articolo che costituisce praticamente tutto il libro, che è frutto di un'intervista della nonna, appunto, di questa ragazza di cui si racconta la vicenda, con una giornalista. E, diciamo un po' improbabile, perché appunto magari insomma ci auguriamo che tutte le giornaliste siano disposte a raccogliere così bene una storia, chissà, un invito anche per loro, però appunto, e quindi c'è questa intervista giornalistica, diciamo, ma molto, poi insomma è un romanzo. E avevo trovato queste tre righe, che non so se appunto possono essere un inizio per parlare di te e della scrittura di questo libro. Si sforza per essere chiara, anche se la situazione non le permette il distacco necessario per la chiarezza, ma non si arrende, la vedo combattere contro il dolore dei ricordi. Questa è la giornalista che raccoglie appunto l'intervista. Ho pensato a te, insomma, un po' all'autrice. Sì, quello stesso sforzo di cui parlo in queste due righe è quello che ho messo quando ho scritto questo libro, perché non è stato assolutamente facile. In quanto ci hai messo a scriverlo? A scriverlo ci ho messo relativamente poco, 2 o 3 mesi l'ho scritto, ma perché avevo già tutta la storia in mente. Cioè, la storia, ce l'avevo da anni in mente, ma sono riuscita a fare un po' di ordine dentro di me e a metterla sulla carta, cercando in questo modo di dare, soprattutto di fare una cosa catartica per me, liberarmi un po' da questo fantasma, da questo incubo che avevo dentro. E soprattutto l'ho fatto per tutte quelle altre che invece non possono parlare. Come sappiamo, la maggior parte delle donne adesso se ne parla dopo che stanno coperte dal lenzuolo bianco, uccise da... Sì. No, infatti appunto in questa anche scelta, no, della giornalista, individuo sì senz'altro una volontà di parlare, rappresentando anche altre voci. Del resto lo vedremo, insomma, questo libro, poi ciascuna esperienza e vita ovviamente è unica e diversa, ma tocca molti temi e tematiche, emozioni, sentimenti e varie cose che riguardano tante testimonianze, insomma, delle donne vittime di una spirale di violenza con il proprio compagno o coniuge e uomo con cui si è scelta, insomma, di vivere. Vogliamo fare un piccolo stacco e poi leggiamo un altro brano che ci aiuta ad andare avanti. Prontissima. Eu sei, não quero recriminação. viver sofrendo em opressão. A cultura da paz, quem ganha com isso sou eu, é você que faz da paz o compromisso, que adianta sair com camiseta da paz. Credevo mi amasse alla follia, e invece era solo la sua follia ad amarmi. Lui era sempre senza lavoro, niente lo interessava, era sempre tutto troppo poco stimolante. Io lavoravo per tutti e due, mi ammazzavo tra il bar e i servizi, sia in casa degli altri che nella mia. Avevo la tanto anelata famiglia e volevo a tutti i costi che fosse una famiglia felice. Del resto lo schema che mi avevano inculcato era questo: la donna si sposa, accudisce il marito, gli risolve i problemi e si carica tutto lei sulle spalle. Mia madre me lo ripeteva sempre, sin da bambina. Non avendo altri termini di paragone, pensavo davvero che la vita della donna dovesse essere questa. Sì, appunto abbiamo scelto un brano iniziale che interroga anche un po' la cultura di cui siamo impregnate, il modo in cui ci educano, che si capisce che è anche una cosa che poi fa scattare, rende possibile questo essere accanto a appunto un uomo violento. Per te, cioè, questo l'hai un po'... Sì, questa è una componente importantissima. Viviamo, cioè, siamo cresciute proprio con l'idea di subire, di dover subire. Ci viene insegnato che è giusto farlo e chi osa ribellarsi non è una brava donna, non è una brava ragazza. Quindi questo è uno dei motivi per cui io e tante altre donne che come me subiscono violenze, prima di parlarne, prima di venirne fuori, passa molto tempo. Eh sì, tu citi appunto anche, oltre alla filosofia, il Principe Azzurro e i romanzi rosa, no? Come tua forma, cioè, o meglio, come formazione, insomma, del personaggio che racconta, in cui in parte... Per cui sì, in effetti sono dei messaggi anche pericolosi, no? Da continuare a veicolare alle bambine, questo di doversi... Sì, sì, sì. No? E che esiste un principe azzurro e proprio, diciamo, organizzare tutte le emozioni intorno a questa cosa, insomma. È una delle catene che poi rendono difficile anche uscire da questa situazione. Porta con sé, appunto, poi lo vedremo, tante cose che il tuo libro tocca: l'inadeguatezza, il senso di colpa, il sentirsi sminuite. Não posso mais me acomodar. Amores bem bom, eu sei. Não quero recriminação, não vou ouvir meu coração, pois vou agir só com razão. Não devo admitir, não, não, viver sofrendo em opressão. Emilio cominciò a sentirsi sempre più frustrato. La famiglia e la paternità gli toglievano il fiato. Era chiaro che non era quello il suo progetto di vita. Se il bambino si svegliava di notte, lui si infuriava. Dovevo alzarmi di corsa dal letto, attenta a non fare troppo rumore, altrimenti per me erano botte. Passavo notti intere sveglie. Edo era molto nervoso e inoltre soffriva di coliche gassose e io dovevo essere veloce a portarlo in un'altra stanza e a chiudere bene tutte le porte per non disturbare il suo sonno. Una volta non fui così veloce. La stanchezza prese il sopravvento, ma ci pensò lui a svegliarmi. Un pugno in pieno viso e le mie lacrime si confusero con quelle del piccolo. Ma la cosa più incredibile è che io rimasi ancora con lui. Nella nostra casa, subendo in silenzio i suoi continui maltrattamenti. Il fatto è che non mi sentivo maltrattata. È proprio questa la tragedia che viviamo noi donne vittime di violenza. Crediamo di non avere il diritto di sentirci vittime. Subentra un demone perverso nelle nostre menti. Ci sentiamo noi le carnefici. E il nostro aguzzino, la nostra vittima. Pensiamo che ciò che succede dipenda da noi, che gli schiaffi che prendiamo siano tutti meritati, che non abbiamo nessun diritto di ribellarci. È difficile spiegare il perché di tutto questo. È un meccanismo di difesa, o meglio, di distruzione. Un meccanismo inconscio. Ad esempio, il pugno che mi diede quella notte, pensavo fosse giusto. Lui doveva andare al lavoro la mattina e invece io restavo a casa. La stanchezza, la mancanza di sonno, il crescere da solo a un figlio erano tutte cose di scarsa importanza in confronto alle sue. È questo il nostro modo di sopportare la violenza, giustificandola. Il comportamento di Emilio aveva generato in me un senso di inadeguatezza. Era riuscito a convincermi che non avevo diritto ad avere altro. Mi ripeteva continuamente quanto fossi sbagliata, quanto fossi diventata brutta e grassa e quanto lui fosse il solo a poter sopportare una moglie così. Io gli credevo. Mi sentivo sbagliata, brutta e grassa. Inconsapevolmente facevo il suo gioco. Mi aveva addirittura fatto credere che fossi frigida. Ma ci pensi? Era lui a essere impotente. Non era in grado di amare una donna, né mentalmente e tantomeno fisicamente. Aveva dei grossi problemi a livello sessuale. Non riusciva a far durare un rapporto più di mezzo minuto. Ma la colpa la dava a me. Ti sembra strano che io non avessi voglia di far l'amore con lui? Già. Come mi trattava poteva bastare a farmi sentire la repulsione di un contatto fisico. Poi, se ci metti pure la sua impossibilità a farmi provare piacere. Però era riuscito a convincermi anche di quello. Ero completamente in balia della mente perversa di mio marito. Ero una pedina che lui spostava dove e quando gli faceva comodo. Ma ancora non ne ero consapevole. E non vedevi la tua immagine nello specchio? Sei tuttora una donna molto bella, immagino che allora lo sarai stata ancora di più. Lo specchio? Credo che gli specchi riflettano solo quello che si prova dentro. E io mi sentivo quello schifo di donna che lui diceva. Casa comida era tudo que ele queria oferecer, baladas, minas, cachaça, não deixaram ver. Jogou nessa treta errada. De sonhos minha vida passou um grande inferno. Pros meus filhos sou escudo, armadura de ferro. Correndo contra o tempo eu procuro ajuda. Alguém que dentro do meu sofrimento e apresente a cura. O primeiro passo deve ser dado por mim, para que esse delírio tenha fim. Sofro calada, violência, quero correr. Amarrado sociedade, como romper? Apanho porque sem saber. Uma vida dura sem sentido, pode crer. Pela família fico calada pra manter, e ao fundo do abismo e sobreviver. É de noite e é de dia, como esconder? Continuo nessa vida e não vou morrer. Escondo, seguro o choro, como conter? E ao fundo do abismo e sobreviver. E allora sì, stiamo leggendo il libro Intervista con l'assassina, una donna che si è ribellata alla violenza, Simona Renzi, che è anche qui con noi, e appunto abbiamo scelto di intervallare con le letture perché effettivamente sviluppi bene tutti tanti argomenti, insomma, importanti nel vissuto di tante donne e anche nel nostro, insomma. E abbiamo parlato appunto dell'educazione e di quanto sia un trabocchetto, insomma, che aiuta a cadere in situazioni di violenza. E sicuramente siamo entrate in quella che è ormai la difficoltà poi ad uscirne, no? Questo sentirsi in colpa legato appunto all'educazione. E che rende immobili, che non fa vedere bene come stanno le cose. anche inadeguate, no? Inadeguate rispetto ad un amore che sogniamo così romantico e che invece nella realtà non è, e che quindi magari pensiamo che la colpa sia la nostra perché non è così, perché solo noi non abbiamo questo amore. Sì, che infatti, come dicevi ci sentiamo tu, sbagliate. Ci hanno insegnato, no? Attraverso i romanzi d'amore, attraverso tutta una serie di cose culturali che ci inculcano sin da piccole, e poi quando veramente ci si trova davanti ad un amore che non è tale, non si è più innamorati della persona, mm-hmm. si cerca l'amore ideologico, no? Esatto. Eh sì. Pessima spirale. No, ma infatti. No, infatti, appunto, poi ne parlavamo anche prima, ma se durante le presentazioni anche che hai fatto del libro, siccome poi andremo avanti a leggerlo, ci sono veramente tanti temi, cioè si vede che c'hai comunque molto riflettuto sulla storia, e appunto se hai trovato agganci anche con altre donne, perché qui qualsiasi cosa ci può, diciamo, comunque investire, ci interroga e ci sì in ogni presentazione che ho fatto c'è stata qualche donna che, quando era tutto finito, quando i riflettori si erano spenti, mi si avvicina. Quasi sempre trovo qualcuna che si avvicina e mi racconta la sua storia, più delle volte piangendo e più delle volte chiedendo aiuto. Questa cosa è già mi ripaga di tutto quello che ho vissuto io, tutto quello che ho subito, viene ripagato da questa possibilità di aiutarle nel mio piccolo. Anche perché, insomma, appunto, come poi vediamo, adesso leggeremo un altro brano, dichiararlo, dirlo a qualcuno o a qualcuna in questo caso, e sì, almeno ammetterlo è il primo passo. Quindi quando una si avvicina con questa consapevolezza va accolta, ovviamente è molto importante, anche per non sentirsi sole, no? Con certo. Il fatto di pensare di essere le uniche ad essere trattate così, invece la condivisione dà la possibilità di capire che non si è le uniche. Sì, infatti penso che proprio in questo momento uno si rende conto che non è lei ad essere inadeguata. Questo è fondamentale, infatti, lo scambio, il parlarne tra chi la... Per spostare il punto di vista, no? Come certo. Dici tu, non è l'unica ad essere inadeguata. Sì, sì. Lì, quando le altre donne sentono che non sono le sole a subire questa cosa, si fanno coraggio e il più delle volte si rivolgono poi a dei centri antiviolenza, e quindi questo è importantissimo. Sì, sì, no, infatti è un primo passo che appunto è importante cogliere, e in fondo se ne esce se qualcuna raccoglie. C'è una sorta di escalation nell'uso della violenza di questo tipo di soggetti. Prima comincia quella verbale, poi si passa a quella psicologica, che devo dire è la più devastante. Solo alla fine, quando si rendono conto che non riescono più a ottenere il risultato sperato in quel modo, passano alla cieca e devastante violenza fisica. A un certo punto, dentro di me scattò qualcosa che non riesco bene a definire. È come se improvvisamente il velo che copriva i miei occhi si fosse squarciato, facendomi vedere la merda in cui vivevo. È stato un passaggio sottile e non ben definibile. Cominciai a rendermi conto che non meritavo quella vita. Mio figlio non la meritava, e mi liberai dalla cappa di sottomissione che mi legava a lui. Non sono in grado di spiegare come questo mio cambiamento interiore possa essere stato recepito così chiaramente da Emilio. Neanche io me ne rendevo ancora conto. Fatto sta che cominciai a non accettare più tutte le sue stranezze. La mia forza di carattere cominciò a venir fuori, e fu proprio quella che scatenò la ferocia nei miei confronti. Da quel momento in poi Emilio diventò sempre più intrattabile e manesco. Cercò di riprendere il dominio in ogni modo, fino a che non si rese conto che il modo migliore per fermarmi era lasciare il lavoro e farci tornare a vivere nell'indigenza di prima. scrisse la sua lettera di licenziamento all'azienda e quella fu per me la goccia che fece traboccare il vaso. Lo lasciai e tornai a vivere con mio figlio nella vecchia casa. Ricordo il giorno che andai via. Lui mi rincorse per le vie della città, picchiandomi ogni volta che riuscivo a prendermi. Scappavo come un animale braccato, mi nascondevo tra la gente, ma ogni volta me lo ritrovavo davanti. Aveva gli occhi iniettati d'odio e di rabbia, non lo fermava niente e nessuno. Non avevo mai pensato che la violenza potesse assumere forme così diverse e insolite. Siamo abituati a pensare solo a ciò che è misurabile. Quanto sangue ha versato, quanti lividi ha riportato, ma la vera violenza è quella che ti ruba la dignità, che ti fa sentire come nuda in mezzo a persone vestite a festa. Dunque, infatti, diciamo, poi da piccoli dettagli, da cose che ciascuna, insomma, per ciascuna sono diversi, nel tuo caso è stato un toglierti, nel tuo caso, scusami, poi insomma, nel caso della donna che è raffigurata nel libro, la protagonista, quando lui gli ha tolto gli occhiali da viso, dal viso gli occhiali da sole, e sapeva bene che quelle lenti scure avrebbero filtrato non solo il sole ma ogni sguardo curioso della gente, e allora lui me le tolse, lasciando che chiunque potesse entrare nelle mie emozioni, ferendomi in quel modo più profondamente che con mille schiaffi. Insomma, appunto, la violenza ha molte facce, anche ci sono tanti modi, in effetti diversi, per riconoscerla, e in questo caso un'umiliazione, insomma, comunque quello che la protagonista percepisce come un'umiliazione, dà il via a una sorta di consapevolezza che però da sola non è sufficiente, insomma. E quindi nel libro si comincia a individuare, tu individui una serie di, appunto, possibilità che poi sono difficili da praticare anche per una dipendenza proprio psicologica dalla situazione, e c'è un bel discorso che tu fai, una bella cosa che scrivi sul fatto che ti è familiare, in un certo senso è familiare questa violenza, ed è più rassicurante che altro. Sì, quello è proprio uno dei meccanismi più perversi che scattano, no? Cioè si è abituati a vivere in quel modo, quindi quel modo, come dicevi te, cioè familiare. Rompere lo schema, uscirne fuori, spaventa, perché è l'ignoto, è qualcosa che non si conosce. Però man mano che uno va avanti, quando riesce a liberarsi un po' dalla violenza psicologica, perché questo è importante sottolinearlo sempre, spesso la gente chiede perché le donne stanno lì e subiscono tutto questo, perché non fanno niente, continuando a dargli una colpa. Anche in questo caso, invece, io posso dire, io l'ho passato, quindi so di cosa sto parlando. Quando l'uomo arriva a picchiarti, arriva a usare la violenza fisica, ti ha già sottomesso e schiacciato con quella psicologica. E quindi tu non reagisci perché sei già sotto di lui. Certo, e perché lo ricordiamo, insomma, siamo in un'intervista con l'assassina, poi questo tuo, diciamo, trovare un finale a questa storia che è proprio sulla violenza fisica, cioè sul livello della sopravvivenza, e quindi è chiaramente un assassinio fatto per poter sopravvivere, cioè proprio questa... È esattamente la protagonista che si libera da questa sudditanza psicologica, no? E il percorso comunque è lungo, insomma, tu parli dei centri antiviolenza. Adesso purtroppo non abbiamo moltissimo tempo per allungare le letture, comunque tu fai, insomma, un racconto della tua esperienza con i centri, tra le altre cose. Samantha, perché sto andando avanti con fuori programma. Ti seguo in qualche modo, ci provo. E tra l'altro lo ricordiamo, insomma, alla fine il ricavato di questo libro, parte del ricavato, andrà al centro Donna Lisa, che è un centro antiviolenza. perché evidentemente insomma sono importanti. Sì, beh, l'unica cosa da fare in questo caso, in queste situazioni, è rivolgersi a loro, a dei centri antiviolenza, perché lì trovi persone che sono comunque formate all'accoglienza, alla prima accoglienza di una donna che sta vivendo il dramma della violenza. E lì è il modo più diretto per trovare aiuto. Vediamo come nel libro è descritta, insomma, questa esperienza, ovviamente. Me ne andavo con il bambino, dovevo almeno denunciare la cosa, altrimenti dalla ragione passavo al torto. Espletate tutte le formule burocratiche, Sonia mi disse di andare a prendere Edo a scuola. Ci caricò tutti e due in macchina e cominciamo il pellegrinaggio per i centri antiviolenza di Roma. Girammo per ore, non c'era posto da nessuna parte per noi. Ci sbattevano da un centro all'altro, ma niente, le liste d'attesa erano lunghissime. C'erano centinaia di donne che aspettavano che si liberasse un posto letto per poter anche loro sperare in una fuga. A ogni rifiuto la mia disperazione aumentava. Ormai non potevo più tornare indietro. Quella sera non potevo rientrare a casa. Quando ormai non sapevamo più dove andare, a Sonia venne un'idea. Potevamo provare a chiedere aiuto ai servizi sociali del comune. Ci precipitammo lì, ma le porte erano sbarrate. A quel punto non sapevamo proprio più a che santo appellarci. Ricordo che mi misi seduta sulle scale d'ingresso con Edo in braccio. Piangevo disperata. Neanche Sonia sapeva più cosa dirmi per consolarmi. La situazione era davvero critica. In quel momento ci si avvicinò un uomo. Ci aveva visto bussare, poi crollare disperate sulle scale. Si incuriosì, insomma, e venne a chiederci cosa fosse successo di così grave. Gli spiegammo tutto e lui, alla fine del nostro racconto, tirò fuori il telefonino e chiamò qualcuno all'interno degli uffici. La porta, fino a quel momento chiusa, si aprì e una donna gentilissima ci fece accomodare dentro. L'uomo davanti al portone era l'autista dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Roma. Vista la situazione disperata, si era appellato al suo datore di lavoro e questi fece riaprire gli uffici per noi, dando disposizione agli impiegati di trovare un posto dove sistemarci. E allora sì, appunto, questa descrizione del pellegrinaggio nei centri antiviolenza, che in effetti sono pochi e hanno pochissimi fondi ovviamente, e si sostengono spesso e volentieri su praticamente volontariato, e c'è una descrizione tipicamente italica, insomma, dell'autista dell'assessore incontrato, e diciamo la protagonista trova uno spazio per qualche mese dentro una casa famiglia gestita dalle suore di Calcutta. Vabbè, anche qui sarebbe, diciamo, interessante comunque dire, almeno aprire un capitolo a parte, sì, leggere comunque l'impressione anche di questa esperienza. Sì. Quando si pensa a quest'ordine di religiose, si immagina la carità cristiana, l'abnegazione per il prossimo. Beh, non è proprio così. Con noi donne erano tremende, a parte la superiora, Suor Patrick, della quale avevamo già parlato. Ci trattavano come schiave, costringendoci a lavori umilianti e inutili, senza curarsi più di tanto del nostro stato emotivo. Vuoi mangiare? Allora lavora. Era quello che ci ripetevano continuamente quando provavamo a lamentarci, o solo quando ci vedevano stanche e stressate. Ricordo che non mi lasciavano mai il tempo per stare con mio figlio e, come puoi ben immaginare, lui aveva bisogno di me più che mai. Con gli altri, la gente del quartiere, i volontari, erano sdolcinate, con noi aspre e dure. Dentro la dispensa c'era ogni ben di Dio, ma a noi davano solo le cose scadute, il pane di una settimana prima, i biscotti molli. I nostri figli vedevano i pacchi di merendine, le bottiglie di Coca-Cola passargli sotto il naso, ma guai se provavano a prenderle. Quelle cose erano state tutte donate da negozi, bar o semplici cittadini che per il nostro sostentamento, ma loro in parte le distribuivano nei pacchi di aiuto alimentare che davano alle famiglie della zona o le impacchettavano per spedirle in Albania. In quei giorni la casa famiglia era sempre piena di persone che venivano a fare la loro opera di bene annuale. Ci portavano vestiti smessi, giocattoli rotti per i nostri figli, qualche panettone. Le sorelle, in questa occasione, ci costringevano tutti a vestirci bene, sorriso stampato sulle labbra e in fila nel refettorio. Dovevamo accogliere i volontari, dire quanto stavamo bene in quella casa e accettare quei doni con riverenza e prostrazione. Facevano fare a tutti il giro delle aree comuni, illustrando le attività svolte, ma guai a far vedere lo schifo in cui ci facevano dormire. Allora sì, non tutto è rose e fiori, però poi insomma l'incontro che viene descritto anche dentro questa casa famiglia con altre donne è interessante. E poi nel brano prima abbiamo sentito che lei comunque anche in questo momento appoggiata da un'amica, no, Sonia, che è un personaggio che sblocca un po', insomma comunque aiuta in qualche modo, ecco, dice andiamo a rivolgerci ai centri, inizia il pellegrinaggio. E questa casa famiglia, non abbiamo tempo insomma di leggere le storie che sono raccolte dentro. Tu come ci hai lavorato a queste storie? Te ne sono venute in mente alcune? Hai mischiato personaggi? No, beh, io ho raccontato qui sul libro delle donne che ho conosciuto realmente lì. Sì, dei legami di amicizia che si sono creati. Infatti io ci tengo tantissimo a sottolineare l'importanza della solidarietà tra donne. Cioè, anche in quella situazione che era, come avete una situazione molto difficile e dura, però grazie proprio a questi legami che si sono creati, sono riuscita a superarla nel modo migliore, facendomi anche qualche risata, nonostante il dolore e la tristezza che era di fondo per tutte lì. Certo, certo. Tu hai rapporti ancora con loro, le senti? Poi sono quasi tutte immigrate, insomma. Purtroppo non le ho più incontrate. Infatti questa è una cosa che io ci penso sempre a loro, perché sono state importanti nella vita mia e ho voluto proprio dimostrare questa importanza raccontandole qui sul libro. Sì, infatti hanno uno spazio, insomma, anche nell'economia del libro abbastanza grande, insomma, per cui è vero, sono delle belle storie, ma noi comunque non ve le anticipiamo a parte il poco tempo a disposizione. Poi c'è anche una riflessione sulla, diciamo, le forze dell'ordine, insomma i carabinieri compaiono oltre che per arrestarla dopo, diciamo, il suo reazione, riscatto, e sono appunto figure anche che incombono in modi, non, insomma, una volta cercano di entrare in casa per una denuncia scattata in ospedale e appunto senza immaginare o immaginando e non interessandosi molto del fatto che il compagno o marito dentro casa... Certo, quello che poi provocava questo loro intervento. Sì, io in questo libro sparo un po' a zero su tutte queste istituzioni, sì, prima veramente. Delle suore... però purtroppo è stata la mia esperienza. Io con le cosiddette forze dell'ordine non ho avuto un buon rapporto. Ogni volta che le chiamavo non sono mai intervenuti. In generale, ma anche in storie di violenza, sì, purtroppo è, cioè, vabbè, comunque, insomma. E appunto, diciamo, arriviamo finalmente, insomma, insomma, ci siamo fatti un'idea della situazione difficile. La leva è sicuramente il riuscire a visualizzare, insomma, bene un po' la propria posizione in quel tipo di relazione, e poi il rivolgersi all'esterno. Poi, appunto, nel libro, che è ovviamente l'intervista con l'assassina, lei compie, insomma, diciamo, questo omicidio, sobbissata dall'ennesima violenza e dalla paura. Viene però descritto come una... dice: sicuramente il mio gesto potrebbe essere riferito a una perdita del controllo, però non è stato questo. Anzi, direi che per la prima volta ho preso il controllo della mia vita, la risposta più sana che ho avuto in questi anni. Che per te è stato un po' anche il libro, insomma, diciamo, forse. Sì, io l'ho fatto con il libro, però la protagonista finalmente, dopo tutte le violenze che ha subito, per una volta ha deciso di difendersi, ha messo la sua vita avanti a quella del suo persecutore e si è liberata così. Leggiamolo questo brano e togliamoci. Quando sento bussare alla porta, ho lasciato tutto sul tavolo e sono andata ad aprire. Pensavo fosse la vicina di casa. Spesso dimentica le chiavi e viene da me a chiedere il doppione che mi ha lasciato in custodia. Ho aperto senza neanche guardare nello spioncino. Appena mi sono resa conto che era Emilio, ho cercato di chiudere la porta, ma lui è stato più veloce di me. Mi ha spinta via con forza ed è entrato. Aveva bevuto. Puzzava di grappa a metri di distanza. Mi è sembrato di vivere un déjà vu. Lui ubriaco che mi veniva contro, con la rabbia negli occhi e la bava alla bocca. Urlava cose senza senso. Mi accusava di avergli rovinato la vita, di avergli fatto perdere la donna e di avergli portato via suo figlio. Dapprima ho cercato di calmarlo, parlando con calma, tentando di spiegargli che le cose che diceva non erano vere, che era solo offuscato dall'alcol, che potevamo spiegarci in altri modi senza fare scenate. Ma non ha funzionato. Più parlavo e più lui dava in escandescenza. Mi ha spintonato più volte. Dall'ingresso mi ha fatto entrare in cucina, bloccandomi in un angolo. Mi parlava a pochi centimetri dal viso. Il puzzo dell'alcol mi dava il volta a stomaco, ma ho cercato di non fargli vedere il mio disgusto, né la mia paura. La paura. Ora che ci penso, non avevo paura. Era come ripercorrere un copione antico. Scene già vissute mille volte, scevre ormai del pathos originale. Cercavo solo di non farmi colpire, né dalle sue mani né dalle sue parole. Non ero più disposta a farmi fare del male, non più, già avevo dato. Lui urlava, io cercavo di mantenere la calma e di trovare il modo per uscire da quella situazione. Poi è uscito dalla sua bocca quello che non avrebbe mai dovuto uscire. Sempre gridando, ho detto che aveva scoperto. Ha detto che aveva scoperto dove abitava Edoardo, che scuola frequentava, a che ora usciva la mattina e che l'indomani avrebbe fatto capire anche a lui chi era suo padre. Non ci ho visto più. Tutta la calma è passata in quel preciso istante. Sono diventata come una lunessa alla quale si sta toccando un cucciolo. Mi sono divincolata e gli ho mollato un calcio con tutte le forze che avevo. Emilio non aspettava altro che una mia reazione. Il predatore inizia la caccia solo quando la preda si muove. Mi ha riacciuffato per un braccio e mi ha sdraiato sul tavolo della cucina. Aveva gli occhi iniettati di odio, stringeva le sue schifose mani sul mio collo, togliendomi sempre più il respiro. Voleva arrivare fino in fondo, voleva vedermi morta e ci stava riuscendo. Stavo soffocando, l'aria faticava a entrare nei miei polmoni. Sentivo la testa confusa. Qualche secondo ancora e sarei svenuta. E poi? Non era la morte a farmi paura, ma l'idea di non poter più difendere mio figlio dalla sua pazzia. È stato questo pensiero improvviso che ha guidato la mia mano. Avevo il coltello poco distante, quello usato poco prima per mondare la zucca. Non ci ho pensato su un istante, l'ho afferrato e ho sferrato un primo colpo sul fianco di quella bestia feroce. Ho lanciato un urlo spaventoso, un misto di dolore e sorpresa. Non se lo aspettava il Godardo. Era abituato a sopraffarmi con la sua violenza e a vedermi rannicchita su me stessa in atteggiamento di difesa. Ma questa volta no, non mi difendo, attacco. Davanti ai miei occhi sono passati tutti gli anni che mi ha rovinato e che ha continuato ad ho continuato ad affondare la lama. 17 volte ho guardato il coltello entrare nelle sue viscere, 17 volte, tante volte quanti gli anni che aveva rovinato della mia vita. Mi sono fermata solo quando ho visto che non usciva più sangue dalle sue ferite, quando ho capito che finalmente era morto e che non avrebbe mai più fatto del male a nessuno. Allora, intervista con l'assassina, una donna che si è ribellata alla violenza, Simona Renzi è l'autrice qui con noi, Cultura Edizioni, appunto è un libro anche molto originale proprio per il finale, perché c'è talmente lo sforzo, diciamo, forse anche di immaginare i diversi percorsi delle altre, la volontà di rappresentare, insomma, tante donne, più o meno volontariamente. In effetti tu in questo libro racconti delle storie che esistono, di donne che hanno ucciso per difesa e che in questo caso 30 anni di carcere la nostra protagonista, però insomma ecco, le condanne sono pesantissime e esistono donne che sono detenute per questo motivo. Manca invece ai noi un movimento che in parte si ricordi di loro e che le sostenga, perché insomma... Beh, quelli sono, è legittima difesa comunque, ecco. Non si può lasciare che qualcuno ci tolga la vita così. Eh sì, proprio di due giorni fa, no? La notizia di due giovani donne di Udine che hanno ucciso un uomo che ha tentato di stuprarle, e possiamo senz'altro inquadrarla, credere a loro, inquadrarla nella legittima difesa. Appunto, e sappiamo che sono storie che esistono, insomma, e arrivare a farsi giustizia da sole in questo modo ovviamente tragico, insomma, è un po' la dice lunga, ecco, su sia, dicevamo, il livello di violenza proprio che si subisce, cioè a un certo punto veramente o la mia vita o la tua, e a quel punto. E poi, oltretutto, spesso gli uomini sono abituati al fatto che una non reagisce, quindi sono meno preparati, diciamo, effettivamente. Quindi molti di questi omicidi avvengono pure perché dopo tanto, tanto tempo lui è abituato a menare, lei a niente, e quindi è facile anche, diciamo, coglierli in qualche modo. Per cui, e poi sulla difficoltà anche all'esterno, no, di trovare aiuto, per quanto esistano centri antiviolenza, case famiglie eccetera, sempre troppo poche, e l'importanza dell'incontrarsi con le altre, insomma c'è veramente molto. E c'è anche questa realtà, insomma, ecco, per noi abbastanza dimenticata, delle donne che sono detenute per aver difeso, insomma, la propria vita o quella di... Certo. No, e volevo dire una cosa a questo proposito. Dici, tu stai dicendo la difficoltà del chiedere aiuto, ma non ci dimentichiamo che quando succedono questi episodi, soprattutto quello di cui parlo io, è dentro alle mura domestiche, non c'è nessuno che ti aiuta in quel momento. Certo. Quindi per forza penso che si arrivi anche a questo. Sì, sì, sì, e infatti. No, quindi è anche un modo, insomma, per dare voce anche alle donne che hanno vissuto effettivamente questo finale, e con le quali ovviamente siamo solidali. Allora, il libro è uscito l'anno scorso. Sì, a giugno lo scorso anno. Come si trova? Si deve ordinare, immagino, nelle librerie anche, in parte. Sì, sì, bisogna ordinarlo sul sito della casa editrice, che è culturaedizioni.it, o se no anche su tutte le librerie online, Amazon, tutte queste di vendita online. Senti, allora, tu intanto ti piace scrivere perché già ne avevi scritto un altro, no? Per un difetto d'amore, sì. Altra casa editrice, altro libro, poi magari parleremo anche di quello se ti va di rispolverarlo, non sei stanca di presentare questo, e poi fai anche delle attività, insomma, nel territorio dove vivi. Sì, io vivo in Sabina, Poggio Catino, e lì abbiamo fondato insieme ad altre amiche un'associazione proprio volta alla sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza alle donne, Stregate dalla Torre. Stregate dalla Torre, perché noi la diamo in agenda da anni, sì. E infatti finalmente... Sì, ogni anno facciamo il 31 ottobre un evento che si chiama appunto Stregate dalla Torre. Noi prendiamo le streghe come donne perseguitate, il nostro motto infatti è proprio questo: strega quale donna perseguitata, l'inquisizione non è mai finita. Quindi prendiamo il giorno che è uno dei sabba principali delle streghe e parliamo di violenza sulle donne. Sì, sì. Bene, allora ne riparleremo in agenda perché continuate le attività e poi dai, magari su queste attività dedichiamo anche uno spazio nell'agenda. Salutiamo, ringraziamo tantissimo Simona, ricordiamo Intervista con l'assassino, una donna che si è ribellata alla violenza. E io ringrazio a voi. Grazie tanto. E a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.